Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola dell'undicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. A ciò che si desse incominciamento al favoleggiare, la signora comandò a Fiordiana che cominciasse, ed ella, fatta prima riverenza, così disse. Favola prima. Soriana viene a morte e lascia 3 figliuoli, Dusolino, Tesifone e Costantino Fortunato, il quale, per virtù d'una gatta, acquista un potente regno. Molte volte, amorevoli donne, vedesi un gran ricco in povertà cadere, e quello che è in estrema miseria ad alto stato salire. Il che intervenne ad un poverello, il quale, essendo mendico, pervenne a stato regale. Trovavasi in Boemia una donna, Soriana per nome chiamata, ed era poverissima, e aveva 3 figlioli, l'uno dei quali dicevasi Dusolino, l'altro Tesifone e il terzo Costantino Fortunato. Costei altro non aveva al mondo che di sostanzia fosse se non 3 cose, cioè un albuolo nel quale le donne impastano il pane, una panara sopra la quale fanno il pane ed una gatta. Soriana, già carica d'anni, venendo a morte, fece l'ultimo suo testamento. A Dusolino, suo figliuolo maggiore, lasciò l'albuolo, a Tesifone la panara, e a Costantino la gatta. Morta e sepolta la madre, le vicine per loro bisogna, quando l'albuolo, quando la panara, ad imprestito lor chiedevano. E perché sapevano loro esser poverissimi, gli facevano una focaccia, la quale Dusolino e Tesifone mangiavano, lasciando da parte Costantino, minor fratello. E se Costantino gli addimandava cosa alcuna, rispondevano che egli andasse dalla sua gatta, che gliene darebbe, per il che il povero Costantino con la sua gatta assai pativa. La gatta, che era fatata, mossa a compassione di Costantino e adirata contro i 2 fratelli che sì crudelmente lo trattavano, disse: «Costantino, non ti contristare, perciò che io provvederò al tuo al viver mio». Ed uscita di casa, se n'andò alla campagna e, fingendo dormire, prese un lepore che accanto le venne e l'uccise. Indi, andata al palazzo regale e veduti alcuni corteggiani, dissegli voler parlar col re, il qual, inteso che era una gatta che parlargli voleva, fecela venire alla presenza sua. E addimandatala che cosa richiedesse, rispose che Costantino, suo patrone, gli mandava donare un lepore che preso aveva, e appresentolo al re. Il re, accettato il dono, addimandò chi era questo Costantino. Rispose la gatta, lui essere uomo che di bontà, di bellezza e di potere non aveva superiore. Onde il re le fece assai accoglienze, dandole ben da mangiare e ben da bere. La gatta, quando fu ben satolla, con la sua zampetta, con bel modo, non essendo d'alcuno veduta, empia la sua bisciaccia, che da lato teneva d'alcuna buona vivanda, e tolta licenzia dal re, a Costantino portole. I fratelli, vedendo i cibi di quai Costantino trionfava, gli chiesero che con loro i partecipasse, ma egli, rendendogli il contracambio, li denegava, per il che tra loro nacque un'ardente invidia che di continuo rodeva loro il cuore. Costantino, quantunque fusse bello di faccia, non di meno, per lo patire che aveva fatto, era pieno di ironia e di tigna, che gli davano grandissima molestia. E andatosene con la sua gatta al fiume, fu da quella da capo a piedi diligentemente leccato e pettinato, e in pochi giorni rimase del tutto liberato. La gatta, come dicemmo di sopra, molto continuava con presenti il palazzo regale e in tal guisa sostentava il suo patrone. E perché oramai rincresceva alla gatta andar tanto su e giù e dubitava di venire in fastidio agli cortegiani del re, disse al patrone: «Signor, se tu vuoi far quanto ti ordinerò, in breve tempo farotti ricco». «E in che modo?» disse il patrone. Rispose la gatta: «Vieni, meco, e non cercare altro, che sono io al tutto disposta di arricchirti». E andatisi insieme al fiume, nel luogo che era vicino al palazzo regale, la gatta spogliò il patrone e di comun concordio lo gettò nel fiume. Dopo si mise ad alta voce a gridare: «Aiuto! Aiuto! Correte che messer Costantino s'annega!» Il che, sentendo il re e considerando che molte volte l'aveva presentato, subito mandò le sue genti ad aiutarlo. Uscito di acqua, messer Costantino, e vestito di nuovi panni, fu menato dinanzi al re, il quale lo ricevette con grandi accoglienze. E addimandatolo per qual causa era stato gettato nel fiume, non poteva per dolor rispondere. Ma la gatta, che sempre gli stava da presso, disse: «Sappi, o re, che alcuni ladroni avevano per spia il mio patrone esser carico di gioie per venire a donarle a te, e del tutto lo spogliorono, e credendo dargli morte, nel fiume lo gettorono, e per mercè di questi gentiluomini fu da morte campato». Il che intendendo, il re ordinò che fusse ben governato ed atteso, e vedendolo bello e sapendo lui esser ricco, deliberò di dargli Elisetta, sua figliuola, per moglie, e dotarla di oro, di gemme e di bellissime vestimenta. Fatte le nozze e compiuti i trionfi, il re fece caricare 10 muli d'oro e 5 di onoratissime vestimenta, e a casa del marito, da molta gente accompagnata, la mandò. Costantino, vedendosi tanto onorato e ricco divenuto, non sapeva dove la moglie condurre, e fece consiglio con la sua gatta, la quale disse: «Non dubitar, patrone mio, che ad ogni cosa faremo buona provisione». Cavalcando ognuno allegramente, la gatta con molta fretta camminò avanti, ed essendo dalla compagnia molto allontanata, si incontrò in alcuni cavalieri, a quali ella disse: «Che fate quivi, o poveri uomini? Partitevi presto, che una gran cavalcata di gente viene e farà di voi ripresaglia. Ecco che le qui vicina, udite strepito degli initrenti cavalli». I cavalieri spauriti dissero: «Che diciamo dunque far noi?» Ai quali la gatta rispose: «Farete a questo modo: se voi sarete addimandati di cui siete cavalieri, rispondete animosamente di messer Costantino, e non sarete molestati». E andatasi la gatta più innanzi, trovò grandissima coppia di pecore e armenti, e con li lor patroni fece il somigliante. E a quanti per strada trovava, il simile diceva. Le genti che Elisetta accompagnavano dimandavano: «Di chi siete cavalieri? E di chi sono tanti belli armenti?» E tutti ad una voce rispondevano: «Di messer Costantino». Dicevano quelli che accompagnavano la sposa: «Adunque, messer Costantino, noi cominciamo sopra il tener vostro entrare?» Ed egli col capo affermava di sì, e parimenti d'ogni cosa che era dimandato rispondeva di sì, e per questo la compagnia gran ricco lo giudicava. Giunta la gatta ad un bellissimo castello, trovò quello con poca brigata e disse: «Che fate, uomini da bene? non vi accorgete della rovina che vi viene addosso? Che? Dissero i castellani. Non passerà un'ora che verranno qua molti soldati e vi taglieranno a pezzi. Non udite i cavalli che nitriscono? Non vedete la polve in aria? E se non volete perire, togliete il mio consiglio, che tutti sarete salvi. Se alcuno va di manda di chi è questo castello, ditegli di Messer Costantino Fortunato. E così fecero. Aggiunta la nobil compagnia al bel castello, addimandò i guardiani di cui era. E tutti animosamente risposero: di Messer Costantino Fortunato. Ed entrati dentro, onorevolmente alloggiarono. Era di quel luogo castellano il signor Valentino, valoroso soldato, il quale poco avanti era uscito dal castello per condurre a casa la moglie che nuovamente aveva presa. E per sua sciagura, prima che aggiungesse al luogo della diletta moglie, gli sopraggiunse per la strada un subito e miserabile accidente, per lo quale i mantinenti se ne morì. E Costantino Fortunato del castello rimase signore. Non passò gran spazio di tempo che Morando, re di Boemia, morì, ed il popolo gridò per suo re Costantino Fortunato, per esser marito di Elisetta, figliuola del morto re, a cui per successione aspettava il reame. E da questo modo Costantino, di povero e mendico, signore e re rimase, e con la sua Elisetta gran tempo visse, lasciando di lei figliuoli successori nel regno. Fine della storia. Grata fu agli ascoltanti la favola da Fiordiana raccontata, ma ciò che il tempo vanamente non passasse, la signora le comandò che il suo enimma proponesse. Ed ella, allegra e contenta, in questo modo disse: dentro un giardin di vaghi fiori adorno, corre un fior rosso e una bianca rosa. Né si stancano mai notte né giorno, e splende e luce sopra ogni altra cosa. 12 rami cinge d'ogni intorno una gran quercia che nel mezzo posa, ed ogni ramo grande e grosso ca 4 sol e non più ghiande ci dà. Non fu veruno che sapesse interpretare l'oscurissimo enimma, e ancorché uno dicesse una cosa e quell'altro un'altra, non di meno la loro dichiarazione era molto lontana dal vero. Fiordiana, veggendo il suo enimma irresolubile rimanere, disse: signori, il mio enimma altro non dinota salvo questa macchina mondana, la quale è come un giardino di fiori, cioè di stelle, e per dentro corre un fior rosso, che è il sole, e una rosa bianca, che è la luna, e ambidue giorno e notte girano e illuminano l'universo. In questa macchina è piantata una quercia, che è l'anno, e ha 12 rami, cioè 12 mesi. Di quai rami ciascun ha 4 ghiande, cioè 4 settimane del mese. Intesa la vera interpretazione dell'oscuro enimma, tutti universalmente lo comendarono. Fine della prima favola dell'undicesima notte.